利用某个时日还要去来当波心，以为会捞几个燕子就在哪里做。 我也有你却不能放，阿峰放大悲剧破出来当，那欧尼谁不是被我们你打给我本来没被那好的也打那些 violencia engendra violencia, si la tienen en su mesa cada día nunca van a alcanzar sabiduría, se alimentan su cuerpo y sus neuronas. Megaphonics, Megaphonics, Megaphonics, la música vista del cielo, trasmissione musicale e geopoliticale. Eccoci qua con Megaphonics, la trasmissione di oggi parte delle iniziative che hanno messo in piedi Free Palestine e anche il gruppo delle ribellule, in particolare un'iniziativa che sarà all'occupazione del porto fluviale in via del porto fluviale vicino a Piramide, in cui verrà ascoltata e vera per fare dibattiti con le donne Rasha Assab. Per primo volevo salutare le compagne e i compagni di Free Palestine, non solo per l'iniziativa che dura 3 giorni, poi ne riparleremo dopo, ma anche per tutto il lavoro di traduzione che hanno fatto sul progetto di Words of Women from the Egyptian Revolution, che e Parole di donne nella rivoluzione egiziana, che è una serie di documentari che dà parole alle donne per costruire un audiovisuale Earth Story Project, per non dimenticare la nostra storia. Questo lo dice Nasli Hussain, una delle protagonista, una delle iniziatrici di questo progetto. Siamo un gruppo che ha scelto questo progetto per fare luce e documentare la partecipazione come una parte della storia. Vuole essere un strumento per dare forze, per dare una fonte di risorse per chi è interessato all'argomento della partecipazione delle donne alla rivoluzione. Questa partecipazione non è avvenuta come una sorpresa, neanche come un fenomeno straordinario. Le donne prendono parte in tutta la società e costruiscono una parte dello spectrum sociale, politico e economico, ma la storia ha questa tendenza a lasciarle nell'ombra, mentre che illumina la partecipazione di uomini attribuendo solo a loro il ruolo di leadership. Allora, ogni piccola video che voi potete trovare a partire dal sito Free Palestine, vi lo dico dopo, ma si trova, cioè, e lo sapete, lo conoscete. Dunque, ogni piccola video presenta il profilo di una donna che parla della sua vita, del suo lavoro prima della rivoluzione e poi la loro partecipazione e diciamo la situazione di adesso. Ascolteremo due pezzi, una di Rasha Assad e una di Nada Zatuna, ma ci sono tante, almeno 7, e si trova per esempio, si trova a parte loro due, su cui riparleremo. C'è anche Miriam Kiroulos, 22 anni, una studentessa di scienza politica e sociologica. C'è Mina El Sabi, 18 anni, anche lei studentessa, che ha fatto parte della campagna Noi ai processi militari sui civili. C'è Saba Faraz Ibrahim, che è una donna di 52 anni, che racconta anche le rivoluzioni e anche le sue partecipazioni militanti a altri movimenti in Egitto negli ultimi 10-20 anni. uguale per Hassan Sadek, 52 anni, Evelyn Hasham Malan Ekandar, che lei viene dal nord del Delta, e dunque che ha 64 anni, che è direttrice di un museo, di Aleda di Madeh Amavar Mohamed, 20 anni, studentessa in economia e commercio. È molto interessante perché queste donne vengono da diverse, sia geograficamente da diverse parti dell'Egitto, ma anche da diverse comunità cristiane, nubia, e diverse età e diverse diciamo più o meno impegnate nella politica prima, ma hanno comunque raggiunto a un certo momento la rivoluzione. ليش نتعارك ونحن كلنا سوا اسمع قلبك بتعارف بالحقيقة اسمع قلبك ويعرف بالحقيقة بيني وبينك غياب طويلة ليش نتعارك ونحن كلنا سوا ليش نتعارك ونحن كلنا سوا ليش نتعارك ونحن كلنا سوا اسمع قلبك بتعارف بالحقيقة اسمع قلبك ويعرف بالحقيقة بيني وبينك أيام طويلة ليش نتعارك ونحن كلنا سوا Yeah. Natasha Atlas che compone la maggior parte delle sue canzoni, ma è anche ripreso dei classici del repertorio orientale di Abdelalim Hafez, Umm Kulthum, anche Feroz. Le sue origini sono moltiplici: egiziana, britannica, marocchina, palestinese, musulmane e ebraica, e quello rende il suo sguardo particolarmente pertinente sull'attualità politica di questa regione del mondo della Palestina. E questa canzone infatti è proprio rivolta per il popolo palestinese, anche da cui lei appartiene, e dice perché stiamo lottando mentre siamo tutti insieme. Ascolti il tuo cuore e io conoscerà la verità. Tra noi c'è una lunga storia, perché stiamo lottando quando siamo tutti insieme. E questo lei riprende queste parole. Ritorniamo alla pace, ritorniamo all'amore. Riparlo dopo del Natasha Atlas. Dunque, dicevamo che c'è Rasha Sab che sta arrivando a Roma, che comunque è già arrivata, per questi 3 giorni di iniziative con lei, a mercoledì 17 ottobre alla Facoltà di Sociologia della Sapienza. Ci sarà alle 13 un pranzo sociale, poi alle 3:30 un'assemblea dibattito. Piazza Tahrir, fra lotte, mediatizzazione e repressione, e poi un'iniziativa con una cena e una proiezione e un dibattito. Giovedì al Porto Fiuvale, sala del tè rivolta alle donne, e venerdì non ce l'ho. Giovedì